Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Diceva il generale Patton che ogni piano di battaglia, ogni tattica stabilita a tavolino va a pezzi di fronte al nemico. In modo non molto diverso, ogni sforzo per ridurre i consumi energetici di un edificio può essere vanificato da comportamenti scorretti dei suoi utenti. Per questa ragione è nato Model Home 2020, un progetto internazionale lanciato da Velux, il cui obiettivo è cercare di valutare con un monitoraggio molto attento in che misura le specifiche di progetto di un edificio vengono poi rispettate e corrispondono alla realtà quando l'edificio viene abitato e utilizzato. Che cosa ne è venuto fuori da questa ricerca? Più di una decina sono gli edifici di questo tipo in giro per l'Europa, ce lo spiega la responsabile del progetto Model Home per Velux Italia, Erika Galdi, che ho incontrato in un convegno a Cosenza qualche settimana fa. Sentiamo com'è andata. L'obiettivo principale di questa esperienza è stato proprio quello di mettere a sistema il dato risultante dal progetto in termini appunto di consumi energetici con il dato risultante alla fine del primo anno di misurazione, una volta che all'interno della casa era entrata una famiglia di abitanti. La cosa interessante è stata innanzitutto fare questo monitoraggio alla fine del primo anno con una prima famiglia composta da padre, madre e due bambini. La cosa singolare è che se su carta la casa avrebbe dovuto consumare poco meno di 40 kWh metro quadro anno al netto di quelle che erano le energie provenienti da risorse rinnovabili, che si traduceva in un surplus energetico di circa 20 kWh metro quadro annuo per la presenza di fonti rinnovabili, esatto, fotovoltaico e solare termico. Al termine del monitoraggio del primo anno la casa consumava quasi il doppio, intorno ai 110 kWh metro quadro. Perché? Perché ovviamente nel calcolo fatto su carta non si è tenuto conto di quello che era l'introduzione del comportamento umano e di quanto il comportamento umano andasse ad influire sul consumo energetico. Che cosa voglio dire? Faccio un esempio molto banale. Durante il primo anno appunto di vita di questo immobile la famiglia ha avuto un secondo figlio, questo ha comportato un aumento immediato della temperatura interna degli ambienti da 20 a 23 gradi. È arrivato il neonato, alziamo la temperatura magari a freddo. Altra abitudine, la famiglia era abituata a aprire, ventilare giornate intere l'involucro e questo ovviamente andava ad influire su quello che era il sistema di ventilazione in fase estiva chiaramente naturale, in fase invernale di ventilazione meccanica. Addirittura arrivava l'amico a cena, che cosa faceva? E andava a giocare con il pannello di controllo elettronico posto in soggiorno, in bella mostra ovviamente, scambiandolo per un videogioco probabilmente. Questo naturalmente andava ovviamente ad inficiare quelli che erano i consumi della casa. Ecco, voi avete monitorato questi consumi, è venuto fuori che invece di 40, 50 facciate 110 di consumo, sì. E a questo punto vi siete domandati, ma riusciamo a raggiungere le prestazioni di progetto? E lì che cosa è iniziato? È iniziato un secondo anno di monitoraggio e una serie di passi, si è andato a lavorare sul discorso della temperatura interna degli ambienti, si è andato a ritarare per esempio il sistema di pompa di calore che non era sufficiente perché non era tarato su una famiglia di quelle dimensioni, si è andato a ritarare per esempio il sistema di controllo domotico, nel senso che in alcune parti è stato possibile l'accesso agli utenti, in altre è stato negato con l'inserimento banalmente di una password. Questo è cosa ha comportato che al termine del secondo anno di monitoraggio il consumo della casa non solo è stato riportato alla soglia di quello che era previsto in fase di progettazione due anni prima, ma addirittura ha superato questi livelli di consumo producendo un surplus energetico di 25 kWh metro quadro anno. Quindi maggiore rispetto a quello previsto dal progetto. Mi pare di capire che c'è un adattamento intanto da due lati. C'è un adattamento degli impianti, ma c'è anche un adattamento delle persone. Sì, e la cosa simpatica e carina che io ritengo insomma interessante è che da questo pannello domotico che ti dicevo inizialmente, in realtà è possibile avere immediatamente la percezione dei consumi connessi immediatamente a quello che è l'azione che tu stai facendo. Per cui rendendo anche questo sistema un po' più probabilmente visibile di prima, quindi dando maggiore risalto nell'ambito del discorso domotico a questo elemento, la signora proprietaria di casa immediatamente si accorge che nel momento in cui apre le finestre più del dovuto o innalza la temperatura vede quanto effettivamente questo incide sul consumo. E questa cosa, se tu leggi il blog della famiglia che abita in questa casa, effettivamente è un dato che sensibilizza moltissimo. La signora alla fine afferma che appunto proprio grazie a questo sistema, non dico che è inibita, no, a fare una serie di cattive tra virgolette azioni, ma ci pensa due volte, o quantomeno sa la sua azione quanto incide sul suo portafoglio, insomma. Insomma, monitorare non serve solo a verificare la coerenza tra progetto e prestazioni reali di un edificio, ma soprattutto ad addestrare i suoi abitanti. Direi che se c'è una morale è questa. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.